Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre mi fa piacere augurarvi buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Molti di voi probabilmente ricorderanno che nell'agosto 2008 Repubblica lanciò in grande stile un'inchiesta su un fatto francamente curioso, vale a dire il capo della procura della Repubblica di Crotone, Tricoli, che accetta di diventare il fiduciario del blind trust, quindi di questa sorta, diciamo così, di società da lui amministrata, che amministrava i beni di chi? Amministrava i beni di, dell'imprenditore Raffaele Vrenna di Crotone, che in primo grado era stato condannato per una serie di questioni. In ogni caso non vado lontano dal dire se dico che i suoi rapporti con alcuni ambienti malavitosi non erano poi così sconosciuti. Ecco. L'imprenditore Raffaele Vrenna non è l'ultimo, voglio dire, in provincia di Crotone tra gli imprenditori è stato presidente dell'Unione Industriale di quella provincia ed è un uomo famosissimo e conosciutissimo nella sua provincia. Allora, Vrenna ad un certo punto, questo imprenditore, perde il possesso dei suoi beni, o meglio, anche grazie alle inchieste giornalistiche, tutte le società di cui era proprietario o comproprietario, a partire dalla Sovreco SPA, che gestisce la raccolta dei rifiuti, la gestiva in società con amministrazioni pubbliche locali in gran parte della Calabria, vengono cedute, il capitale sociale viene ceduto e vengono cedute appunto parte in questo blind trust e parte invece a congiunti. Accade ancora una cosa che può accadere soltanto in Italia e segnatamente in Calabria, che la moglie di questo imprenditore Raffaele Vrenna era, e poi scopriremo se è ancora, impiegata presso la procura della Repubblica di Crotone. Era di fatto la segretaria di Tricoli, Tricoli che va ad un certo punto a gestire i beni di Vrenna, e quindi la moglie di Vrenna lavorava con Tricoli. Un parlamentare del centrodestra, l'onorevole Angela Napoli, membro della commissione parlamentare antimafia, non ci vede chiaro, non gli piace questa situazione e presenta già nel settembre del 2008 un'interrogazione parlamentare. Ma la notizia sfuggita agli organi di stampa, perché ovviamente spesso i giornalisti sono dei pecoroni, è che alcuni giorni fa l'onorevole Angela Napoli ha presentato una nuova interrogazione parlamentare al ministro della giustizia. Interrogazione parlamentare a risposta scritta, ministro della giustizia Angelino Alfano. Buongiorno onorevole Napoli. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, che cosa chiede in questa interrogazione parlamentare? Chiedo un urgente intervento da parte del Ministro per l'avvio della procedura di trasferimento dalla Procura di Crotone per incompatibilità ambientale della signora Comito Patrizia, appunto moglie dell'imprenditore Raffaele Vrenna. Trovo davvero vergognoso e assurdo che la procedura non sia stata avviata fin dal settembre del 2008. Momento in cui lei presentò la prima interrogazione. In cui, esatto, momento nel quale peraltro era appunto stata assunta la funzione di trust da parte dell'ex procuratore Tricoli, procuratore della Repubblica di Crotone, assunzione dell'incarico di trust delle società appunto di questo Raffaele Vrenna. Ecco. Ma è bene anche che venga ribadito che il Brenna ha sì ceduto le quote di partecipazione delle sue società dopo l'avvio della procedura giudiziaria nei suoi confronti, ma le ha cedute proprio alla moglie Comito Patrizia e ai figli ed al fratello. Nello stesso tempo queste nuove società... Ecco, io qui la interrompo un attimo, infatti nella sua interrogazione, stavo proprio arrivando a questa, scrive una cosa che se fosse vero è sconcertante. Mi spiego, io personalmente non credo ormai più da anni alla validità della certificazione antimafia, perché abbiamo avuto fior di mafiosi o prestanomi di mafiosi che hanno avuto con le loro società la certificazione antimafia e svolgevano la loro attività normalmente, però la certificazione antimafia c'è, non possiamo cancellare una cosa che esiste. E quello che a me sembra sconvolgente, se fosse vero, ma lo chiediamo all'onorevole Napoli, è che la moglie dell'imprenditore Vrenna avrebbe costituito nuove società che sono prive del certificato antimafia. È così, esatto, che lei scrive, giusto Napoli? Verissimo, è verissimo. Non riescono ad avere la certificazione antimafia nonostante ci sia appunto ancora la figura, diciamo, sotto un certo aspetto definiamola di garante dell'ex procuratore della Repubblica, appunto Tricoli. Sta certo di fatto che essendo proprio i beneficiari delle cessioni delle quote da parte di Raffaele Brenna, la moglie ed i figli, di fatto sono i familiari. Assolutamente. Di conseguenza non è possibile che venga rilasciata la certificazione antimafia, per ecco, cui la signora Comito Patrizia, cotitolare di quote in queste società che non riescono ad avere la certificazione antimafia, continua però a ricoprire importanti incarichi. Ecco, adesso ci veniamo. Ecco, onorevole Napoli, la interrompo un attimo perché adesso ci andiamo. Piccola premessa. Allora, ovviamente stiamo parlando di una condanna in primo grado. Ovviamente ripeto che la signora di cui stiamo parlando, Comito Patrizia, moglie dell'imprenditore Raffaele Vrenna, non è stata neppure minimamente sfiorata dal processo che ha visto invece condannato in primo grado il marito. Quindi in questo modo accontentiamo anche i garantisti e gli ipergarantisti. Stiamo dando quindi un'informazione corretta. Però che cosa accade? Accade, secondo quella che l'interrogazione, quindi i dubbi più che legittimi, dico io, dell'onorevole Napoli, accade che la signora Comito Patrizia sarebbe ancora, anzi è ancora all'interno della procura. E che cosa accade in quella procura? Accade che un sostituto procuratore, tra l'altro devo dire probabilmente tra i migliori che abbiamo in Italia, per Paolo Bruni, sta, se non sbaglio, mi corregga Napoli, andando in appello del processo Puma che proprio aveva condannato in primo grado, tra gli altri, il marito della Comito Patrizia. Un appello che si preannuncia delicatissimo e, soltanto per dare una visione, all'interno di quella procura quindi lavora tanto il PM Bruni quanto la moglie dell'imprenditore Vrenna, che è stato appunto condannato in primo grado. Questo vuol dire tutto o non vuol dire niente? Lei come la vede Napoli? Ma è giustissima la notizia che ha dato, ma altro che non vuol dire niente. Io ritengo davvero grave, anche perché il procuratore Pierpaolo Bruni, del quale condivido proprio la sua opinione, decisamente uno dei migliori magistrati che possa vantare l'Italia e la Calabria in particolare, ha avuto il coraggio, attraverso indagini adeguate, di avviare un processo, appunto quello che vede condannato in primo grado il Raffaele Vrenna, un processo che coinvolge anche politici, e la cosa è estremamente difficile avviare processi in Calabria che vedano coinvolti purtroppo politici. I coinvolti non certo. Il coraggio di Pierpaolo Bruni, anche l'esito del processo di primo grado, è stato encomiabile. Ecco, e anche a maggior perché... ragione, mi scusi, visto che appunto, come lei ricordava giustamente, c'è la fase di appello di questo processo. Ecco, perché accade che il PM Pierpaolo Bruni va a relazionarsi con il capo della procura, all'interno del cui ufficio siede la moglie dell'imprenditore Vrenna, è così? Esatto, non solo, ma la moglie dell'imprenditore Vrenna mi risulta che abbia anche altri incarichi in uffici della stessa procura, e questi incarichi non possono non portarla a conoscenza di fatti anche delicati, certo. Estremamente delicati. Allora, io dico, cerchiamo anche nei prossimi giorni ovviamente la voce della signora Comito Patrizia, come è giusto dare un diritto di replica. Ringrazio l'onorevole Napoli per questo spaccato inquietante ancora una volta della giustizia o dell'ingiustizia in Italia. Ringrazio regia Peter Bescapè, in studio Laura Faggini, e ricordo che da oggi sul mio blog Guardie o Ladri è online un approfondimento proprio di questa vicenda, quindi per chi volesse saperne di più, http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com, oppure sull'home page del Sole il blog è Guardie o Ladri. Una buona giornata a tutti e a risentirci domani.